30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Sono iniziati ieri a Cremona gli interrogatori per il nuovo scandalo scommesse che investe il mondo del calcio. Il calendario prevede che siano ascoltate innanzitutto le 7 persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta della Procura. Il primo della lista è Massimo Erodiani, titolare di agenzie di scommesse ritenuto tra i promotori dell'organizzazione, della quale altre 9 persone sono agli arresti domiciliari. Gli indagati dell'inchiesta della Procura di Cremona sulle partite truccate avrebbero commesso altri reati anche dopo la cessazione delle intercettazioni telefoniche che sono contenute nell'ordinanza di custodia cautelare. Un saluto da Gigi Donelli, da Filippo Oreggi questa sera in regia. Benvenuti dunque all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Potremmo dire ci risiamo, insomma, chi ha qualche anno sulle spalle ricorda che periodicamente il calcio entra nella bufera. Indimenticabile fu addirittura prima dei mondiali dell'82, straordinari, proprio Paolo Rossi fu uno dei volti di quegli scandali, chissà, probabilmente ce ne saranno stati altri in precedenza, ma eccoci un altro volta al calcio nella bufera. Si chiudono i campionati, la stagione che si pensava archiviata tra scudetti, Coppa Italia, retrocessioni e promozioni, invece si riapre almeno per qualcuno. Allora questa sera ne parliamo anche dell'allarme sui conti che in un anno, vi anticipo, hanno bruciato dalle parti della A e alla Lega Pro 1 miliardo di euro. Insomma, soldi importanti. Questa sera di fatto il protagonista del nostro appuntamento è un collega, è Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore. Innanzitutto possiamo dirlo, immagino fine settimana di fatto legato alla Procura di Cremona per te. Buonasera. Sì, buonasera. Siamo qui a presidiare la Procura di Cremona, che è diventata, almeno in questo fine settimana, la capitale del calcio italiano, ma di un calcio che non credo piaccia ai tifosi, quello legato appunto alle scommesse, al nuovo scandalo. Sono in corso gli interrogatori, dureranno verso l'arco del fine settimana e vedremo quelli che saranno poi gli sviluppi. Ecco, l'abbiamo ricordato nel lancio, l'inchiesta parte da una serie di intercettazioni, parte da questa procura e apre appunto un vaso che è ancora presto per appunto per dire che cosa si troverà dentro, ma la sensazione è che non ci sia nulla di buono. Beh, parte da qui perché c'è un episodio quasi comico, se non fosse anche pieno di risvolti tragici, e cioè un tentativo, anzi un avvelenamento riuscito da parte di un calciatore che era all'epoca, parliamo di novembre 2010, il portiere della Cremonese, durante un Cremonese Paganese. Questo portiere Paoloni è uno dei principali indagati, il quale appunto, essendo parte di questa organizzazione che puntava a truccare le partite per ottenere vincite nel sistema delle scommesse, ha tentato di stordire dal primo al secondo tempo i suoi compagni di squadra, avendo scommesso sulla vittoria della Paganese, la squadra ospite e ultima in classifica. Il risultato fu comunque la vittoria della Cremonese, ma successivamente, appena dopo la partita e durante la parte finale della stessa partita, molti giocatori si sono sentiti male per effetto di questa sostanza che era stata sciolta nell'acqua o nel tè, a quanto cioè, pare. Cioè sostanzialmente, Marco, questo avrebbe letteralmente versato, un po' come nei film, effettivamente sembra un po' i B-movie che... Avrebbe versato questa sostanza, ha versato, perché poi sono state fatte ovviamente indagini cliniche che hanno riscontrato la presenza di questa sostanza, di questo ansiolitico sostanzialmente nel sangue dei calciatori che si sono sentiti male. Uno addirittura ha rischiato di fare un incidente, insomma, con la macchina, lo ha fatto, per fortuna non ci sono state conseguenze e lesioni per lui e per le altre persone coinvolte. Ecco, lui li ha rilassati chimicamente in qualche modo, quindi naturalmente all'insaputa dei compagni, e da lì è emerso che, come dire, non operava in proprio. Da lì è emerso che sostanzialmente la procura ha aperto su denuncia della stessa Cremonese un fascicolo di indagine con 50.000 intercettazioni, e da questo piccolo episodio è stata scoperta l'esistenza di questa organizzazione con vari gruppi, i bolognesi, gli zingari, quella fantasia purtroppo in questi casi ha risvolti anche tristi, ma come dire, supera di molto anche la realtà e la scrittura di un film. Fatto sta che ora si va avanti nel tentativo di capire e di appurare le responsabilità di oltre una quarantina di persone indagate, alcune a diversi domiciliari, altre arrestate, altre indagate appunto a piede libero, tra cui calciatori noti della nazionale come Beppe Signori, altri che giocano ancora nell'Atalanta come Cristiano Odone, alcuni calciatori dell'Ascoli. Insomma, ce n'è per tutti, ecco, i gusti, sono coinvolti anche dentisti, commercialisti. Marco, a questo proposito, visto che parliamo di un processo nel mondo più dibattuto, discusso, insomma tutti siamo CT della nazionale, tutti parliamo liberamente di calcio, ci mancherebbe, ecco, nello stesso tempo poi succedono quasi inevitabilmente anche delle situazioni da monitorare, da chiarire. Ieri per esempio sui giornali emerge il nome di De Rossi. Beh, sai, quella di De Rossi è una posizione molto defilata e forse frutto della millanteria di questo, ecco, stesso portiere che faceva credere spesso ai suoi compagni di scommesse di avere contatti diretti anche con i grandi professionisti del calcio italiano per avvalorare una sua posizione di forza e quindi lucrare ulteriormente sulle vittorie e le scommesse che per lo più poi erano sconfitte, perché spesso i risultati su cui si scommetteva questo gruppo di persone non si verificavano. Chiaramente per esempio il caso di De Rossi viene citato per un Genoa-Roma che molti ricorderanno clamoroso, la Roma vinceva 3-0 a Genova, poi perse 4-3, ma si scommetteva su un over 2,5 che in sostanza significa che bisognava che le due squadre facessero almeno 3 gol, poi una scommessa anche abbastanza semplice da fare in rapporto a due squadre notoriamente offensive nel loro modo di impostare le partite, e viene tirato in ballo appunto De Rossi come un possibile contatto di una partita in cui l'over era abbastanza scontato, credo che fosse quotato anche abbastanza poco. Chiaro, De Rossi ovviamente non ha gradito, ha reagito per difendere la sua onorabilità, ma questo per dire che in qualche modo dobbiamo anche aspettarci, chiaramente questo poi è il mestiere di ciascuno, chi fa le indagini, chi al giornalista, di stare attenti a ponderare bene le voci in un'indagine che di fatto è molto legata alle voci. È appena iniziata, hai detto bene tu, è molto legata alle voci, ci sono 600 pagine piene di intercettazioni in cui si dice tutto e il contrario di tutto, vengono tirati in ballo anche giocatori di Serie A come Pellissier, che però credo siano allo prova contraria, qui nessuno può mettere la mano sul fuoco, ma credo siano sostanzialmente poi estranei ai fatti. Ma tirati in ballo appunto per questioni di millanteria o per accreditarsi verso i compagni di scommessa. Certo, perché possiamo immaginare anche un mondo di relazioni, di amicizie con molte virgolette a entrambi i lati, perché naturalmente sono interessi, sono in quella zona grigia tra leggerezza di alcuni, inconsapevolezza, debiti, eccetera, eccetera. Ecco, Marco Bellinazzo, io vorrei passare invece a un altro tema. Adesso tra un momento, due minuti, abbiamo gli aggiornamenti per chi è in viaggio, ma anticipare. Insomma, tutto questo arriva e naturalmente lo seguiremo in un momento in cui il calcio italiano si preparava a tirare un po' le somme di un'annata. Io mi sono limitato a leggere il titolo di fatto di uno dei tuoi articoli di questi giorni: in 3 anni bruciato 1 miliardo. Come dire, il calcio già non gode di buona salute, non aveva evidentemente bisogno di un nuovo scandalo scommesse. Ecco, vorrei che tu ci inquadrassi invece, prima in un minuto, poi naturalmente ritorniamo nella seconda parte, cosa sta succedendo sui conti delle squadre di calcio. Stiamo per entrare dal prossimo luglio nell'era del fair play finanziario voluto da Platini, cioè un'epoca in cui le società dovrebbero finanziarsi autonomamente in base ai propri ricavi, almeno quelle che ambiscono a giocare in Europa, quindi top club, ma in generale è un'epoca in cui le società dovrebbero avere più autonomia dal punto di vista economico. Voglio dire, la presenza del patron di turno che stacca l'assegno per ripianare le perdite dovrebbe essere un retaggio di un medioevo del calcio. Vedremo se ci si arriverà, in che termini. Fatto sta che la situazione, poi lo vedremo, non è delle più semplici. C'è un calcio che questi ricavi non riesce ad aumentarli, a fronte di spese, soprattutto per ingaggi che continuano ad aumentare invece a discapito dei proclami, e quindi di un calcio che continua a indebitarsi e a essere finanziariamente molto molto fragile. Ecco, un calcio che in qualche modo dovrebbe diventare un sistema di società normali, anche se questo termine vuol dire poco, ma insomma, per intenderci, qualcosa che risponde a un conto economico, che ha naturalmente degli incassi, dei costi, ma di questo ne parliamo tra un momento. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donelli, questa sera con Marco Bellinazzo. Dunque parliamo di calcio, di uno scandalo, ma anche di conti. Conti che erroneamente io in apertura ho detto 1 miliardo bruciato in un anno. No, è 1 miliardo bruciato in 3 anni dalla A alla Lega Pro, in un sistema in cui continuano a crescere le perdite delle società professionistiche, società professionistiche che peraltro sono molto numerose. Proprio in uno degli articoli che il collega Bellinazzo in collegamento con noi ha realizzato in questi giorni ci racconta, per esempio, scopriamo che l'Italia è una sorta di mecca per le società professionistiche, perché ce n'è praticamente il doppio della Germania. Allora non si capisce, o almeno io non lo capisco, in un paese che ha 20 milioni di abitanti in meno, sicuramente un'economia meno importante, ecco, come mai questa differenza anche così secca sui numeri delle società professionistiche? Beh, credo che questo sia legato a tradizioni di campanilismo magari più forti in Italia, per cui in ogni piccolo comune si è tentato di avere una squadra, la squadra del cuore, una squadra importante, magari l'imprenditore principale che operava sul territorio l'ha presa a cuore, se ne è fatto paladino, per ovviamente avere anche un ruolo di primattore nell'ambito dell'economia locale. Questo ci insegna un po' la storia del calcio italiano in questi decenni. Insomma, un ruolo culturale ed economico che però a un certo punto, come dire, va a sbattere contro una realtà fatta di numeri. È evidente, perché nel momento in cui la crisi economica riduce fortemente anche per i club di A le entrate da sponsorizzazioni, le entrate legate appunto allo sfruttamento commerciale anche del marchio delle società, e quindi le risorse diminuiscono, la torta delle entrate diventa sempre più piccola, è chiaro che a quella torta non possono ambire 132 società professionistiche. La crisi quasi irreversibile in cui versa la Lega Pro ne è testimonianza palese. Ecco, a proposito di torta, la torta è fatta in buona parte dai diritti televisivi, che ovviamente dal punto di vista poi di chi deve pagare i diritti non è che cambino se ce ne sono 134 o 132, anche perché poi ne parleremo tra un momento, come dire, la maggior parte dei telespettatori vogliono vedere certe squadre. Ma per dare qualche numero, 999 praticamente sono milioni, 1 miliardo sono i ricavi da diritti televisivi e radio. Poi ci sono le plusvalenze per le cessioni dei calciatori, 383 milioni, e qui sto citando proprio la scheda molto interessante che trovate sul Sole 24 Ore, lo trovate anche sul sole24ore.com e lì lo trovate sempre. I ricavi da sponsor e attività commerciali, quindi il merchandising di cui si parla molto, 310 milioni, i ricavi da ingresso da stadio sono 226 milioni. Ecco, quindi la torta di cui parlavi sostanzialmente è tanta TV. Tanta TV, troppa TV. Che significa riduzione costante degli introiti legati agli stadi, per esempio. L'Italia, la penisola del pallone, garantisce come introiti soltanto il 15% rispetto al 1,5 miliardi di fatturato del calcio italiano SPA legato agli stadi, e il 15% del merchandising, quindi tutto il resto deriva dai diritti TV. E non è sempre così, leggevo che in Germania le cose vanno molto meglio su quest'altro fronte. Esattamente, la Germania ha quasi il 40% delle entrate, dipende per esempio dal merchandising, dallo sfruttamento del marchio, dagli sponsor. È un sistema completamente diverso, anche perché non solo le squadre di Serie A continuano a litigare tra di loro sui diritti TV, la questione è ancora aperta, quella degli ultimi 200 milioni legati ai bacini di utenza. È da un anno che Lega si litiga su questo fronte, con fratture fortissime tra le big e le squadre medio-piccole. Viceversa, in altre realtà come la Germania, appunto, si dipende meno dai diritti TV e questo consente una maggiore flessibilità. Ora si aprirà la contrattazione per i diritti TV 2012-2015 e se Sky e Mediaset dovessero chiudere i rubinetti, io non so come poi il calcio italiano potrebbe andare avanti. Insomma, la sensazione è che si sia raggiunto un tetto dei ricavi possibili e intanto dall'altra parte i costi che sono essenzialmente, leggiamo, costo del lavoro. Ci fa un po' sorridere, non perché non sia un lavoro assolutamente degno quello del, appunto, di lavorare nel settore sport e calcio, ma perché inevitabilmente pensiamo a certi stipendi, a quelli straordinari dei campioni. Ecco, da quel punto di vista, il progetto Platini, quindi quello del fair play finanziario, ha attecchito nelle squadre italiane? Per il momento ancora no. Il progetto Platini, che può essere in teoria molto apprezzabile, in realtà si basa su una profonda ipocrisia, e cioè il vero obiettivo è ridurre gli ingaggi dei calciatori, ridurre certi prezzi di calciatori praticati nel calciomercato a ogni stagione, ma siccome questo è difficile da dire, non siamo nella NBA americana, in cui questo invece è a fondamento proprio del sistema, si è tentato di far passare questo principio attraverso i bilanci delle società, quindi in via indiretta, dicendo in buona sostanza ai giocatori: attenzione che non potrete in futuro chiedere tanto di ingaggio, tanto quanto guadagnate adesso, perché le società non possono spendere troppo, altrimenti vanno in rosso. Io credo che siccome l'obiettivo è apprezzabile, ma la strada è basata su un'ipocrisia di fondo, si rischia di creare poi un cortocircuito che non fa bene a nessuno, per cui le squadre italiane rischiano di essere invece ancora più penalizzate rispetto ai grandi club europei, perché quei grandi club europei, mi riferisco al Real, a Barcellona, al Manchester, per dire alle tre semifinaliste dell'ultima Champions League, hanno fatturati che sono il doppio di quelli delle big italiane, 400-500 milioni contro 200-250. È chiaro che solo se hai certi fatturati puoi continuare a pagare e a comprare i campioni e quindi a vincere, mentre le squadre che non hanno quei fatturati sono, almeno in Europa, destinate a dover accontentarsi di un ruolo di comparsa. Ecco, l'esodo dei grandi campioni. Lo scorso anno abbiamo viaggiato attraverso l'Africa raccontando i mondiali che arrivavano e ci raccontavano tutti che, insomma, tutti i grandi giocatori africani, ce ne sono parecchi, mi viene in mente Toma, questo perché io sono interista, e si avviavano da giovanissimi inevitabilmente verso, appunto, le grandi squadre europee. La sensazione, da quello che ci racconti, è che il rischio è anche per noi, ma di perdere questi campioni. Ma siamo quasi alla conclusione. Vorrei chiederti un'altra cosa. Si è parlato molto dell'importanza dello stadio. Ora, quest'anno la Juventus apre, se non sbaglio, un percorso, almeno all'interno del calcio italiano, dotandosi di uno stadio. Quanto è importante questa decisione? Beh, la Juventus farà da apripista. Lo stadio di proprietà è fondamentale sia per dotare di un patrimonio più solido i club, ma anche per dotarli, di una struttura che sia in grado di garantire un flusso di entrate continuo. Cioè, lo stadio non deve funzionare solo quando c'è la partita, ma dovrebbe essere funzionale a tutta una serie di attività ricettive, di ristorazione, che appunto permettano alla società di avere introiti costanti. In Italia si è tentato, con la legge sugli stati, di dotare di un sistema legislativo incentivante il sistema calcio. La legge è passata al Senato oltre un anno e mezzo fa, da un anno e mezzo è impantanata in Parlamento, vuoi per le divisioni politiche, vuoi perché qualcuno ha tentato di creare un sistema normativo troppo incentivante, scusami la contraddizione, ma finché lo stadio diventa la priorità e attorno si può costruire, va bene. Quando invece poi lo stadio diventa la scusa per invece garantire quasi speculazioni edilizie, la costruzione di villette a schiera e quant'altro, insomma, si finisce forse per andare oltre ciò che sono le legittime aspettative. Gli scopi. Quindi, il calcio italiano ha bisogno di stadi di proprietà, così deve fare con una legge equilibrata, evitando le speculazioni, e soprattutto il calcio italiano io lo dico spesso, deve diventare, mentre è stato per anni un calcio importatore di talenti, un calcio esportatore. Questo significa valorizzare i vivai, scommettere sui giovani, avere meno costi e teniamo conto anche del fatto che le spese per i vivai possono essere scalati dai conti del fair play finanziario, quindi sono una spesa virtuosa, non un investimento che anche per le regole UEFA va premiato e va sostenuto da parte di tutti i club. Grazie a Marco Bellinazzo di essere stato con noi, lo ricordo, sul Sole 24 Ore naturalmente, ma anche su www.sole24ore.com, gli aggiornamenti continui di una storia che di fatto, come avete sentito, arriva in un momento delicato, in un calendario complesso, con un'inchiesta che naturalmente è agli inizi e sicuramente porterà ancora novità da seguire. Grazie da parte mia, da parte di Filippo Aureggi questa sera in regia. L'appuntamento con 30 minuti in cronaca come sempre per sabato prossimo. Un saluto.